Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Invito i nostri radioascoltatori a mandare le mail a questo indirizzo, mi raccomando, mail che siano esemplificative di casi molto più ampi, quindi non soltanto chi scrive ci si può identificare, ma in quella situazione sappiamo che possono trovarsi decine, migliaia di cittadini, insomma casi generali che coinvolgono un po' tutti. Ed è proprio il caso che affrontiamo oggi, perché un nostro radioascoltatore di Bari, Francesco Battista, che ha una grana, l'ennesima che raccontiamo, con la burocrazia. Però io lascerei che fosse lui stesso a raccontarci il caso ed è per questo che gli do il buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Battista, lei ha una attività di recupero dei metalli, di autodemolizione e ha acquistato un nuovo autotreno con attrezzatura scarrabile, come lei, con un termine correttissimo che la invito anche a spiegare ai nostri radioascoltatori, ha acquistato appunto per ampliare il parco mezzi della sua azienda, ma lì iniziano le difficoltà. Racconti pure. Innanzitutto la spiegazione del termine scarrabile riguarda una particolare attrezzatura di cui il mezzo è dotato, permette di intercambiare appunto le attrezzature che il mezzo trasporta, quindi casse, gru, cisterne e quant'altro. I problemi sono iniziati nel momento in cui il veicolo mi è stato consegnato dalla concessionaria, perché in pratica nel momento in cui bisogna fare la messa su strada, perché ottenuta l'approvazione della società di leasing ho ricevuto dalla concessionaria i certificati di conformità, però senza dei quali non si può richiedere l'autorizzazione del trasporto in conto proprio, che rilascia un'apposita commissione della provincia. Quindi lei aveva in buona sostanza un documento fondamentale, le mancava l'altro. Sì, ogni volta, cioè la cosa particolare da quello che ho potuto riscontrare è che ogni documento, ogni certificazione è propedeutica dell'altra, perché poi riunitasi la commissione solo a questo punto si può ottenere l'immatricolazione del veicolo. Certamente. Ottenere le targhe, diciamo fare l'assicurazione e quant'altro per poter circolare. Ecco, lei infatti nella sua mail scrive: se io non posso ottenere il collaudo del veicolo, non posso richiedere la licenza di trasporto in conto proprio. Ma se non ho questa licenza, non posso immatricolare il veicolo. In mancanza di conto proprio e libretti di circolazione, non posso richiedere l'integrazione del mezzo nell'autorizzazione di raccolta e trasporto rottami, che lei già ha. Quindi è veramente una situazione intricatissima, oserei dire. Sì, sì, alquanto complicata. Ecco, ma questo è la prima volta che le accade? Crede che sia, come dire, una, non dico colpa per carità, ma negligenza dell'agenzia alla quale si è rivolto? Si è consultato con altri colleghi per capire se hanno avuto anche lo stesso tipo di difficoltà? Insomma, ci racconti un po' se ha scavato un po' più a fondo in questa vicenda. Onestamente ho contattato sia i responsabili della concessionaria, diciamo i responsabili che curano leasing, gestione di pratiche auto e quant'altro, e diciamo sia gli uni che gli altri si sono stretti nelle spalle, purtroppo hanno asserito che questa più o meno è la prassi. Ecco, però diciamo così che c'è un paradosso, vale a dire, il paradosso lo possono capire subito i nostri radioascoltatori, sta nel fatto che lei, in attesa che questo cane che si morde la coda smetta di mordersela, ha questa autotreno che sta lì parcheggiato, non può usarlo, ma adesso le scattano anche le rate che le deve pagare. Certo. Quindi assicurazioni contro il furto, perché ovviamente si iniziano a pagare, spese di parcheggio e soprattutto le rate del leasing. Benissimo, allora io mi fermerei qui per il momento con la storia che lei ha raccontato, perché noi abbiamo chiamato in trasmissione un esperto che è Giorgio Schiavo, che è il presidente onorario della Confedertai. Sciogliamo la sigla: la Confedertai è la confederazione che raggruppa i titolari delle autoscuole e delle agenzie in Italia. Buongiorno Schiavo. Buongiorno. Allora, lei ha avuto la documentazione che le abbiamo mandato, vale a dire la lettera del nostro radioascoltatore di Bari, che comunque è già molto chiara, e vorrei che lei potesse sciogliere insieme a noi alcuni nodi. La situazione è paradossale o no? Diciamo, è paradossale per come si è impostata e per come è stata portata avanti. Probabilmente una lacuna grossa a chi ha venduto il mezzo, perché un mezzo venduto in leasing certamente è una pratica semplice fare l'immatricolazione con il leasing, ma la pratica invece che richiede qui l'autotrenista e comunque il conducente di mezzi pesanti è una cosa diversa, è una pratica di specializzazione sul trasporto delle merci. E allora questa doveva essere suddivisa in due parti: la prima parte doveva farla l'agenzia che regolarmente fa pratiche di leasing, di autovetture, di auto di mezzi pesanti e così via. Ecco, cosa doveva fare? Cioè, quale parte? Sono delle agenzie specializzate e su Bari ne abbiamo parecchie. Ah, ecco. E fanno proprio solo questo lavoro e sono specializzate perché è veramente una pratica complessa. E voglio dire, non burocrazia italiana, burocrazia europea. Ah, ecco, spieghi. Intanto io direi di tornare un pochino, un piccolo passo indietro, e poi andiamo alla burocrazia europea. Cioè, il piccolo passo indietro è, lei stava splendidamente spiegando il percorso che dovrebbe fare il nostro radioascoltatore e come lui tanti che si trovano nella sua condizione. Dunque lui dovrebbe rivolgersi ad un'agenzia specializzata e suddividere la pratica. Continui pure nel suo discorso, schiavo. E questo lo dovrebbe fare chi vende il mezzo, perché chi vende il mezzo lo dovrebbe consigliare nel modo migliore. Si sa che queste pratiche sono complicate nel vero senso della parola. Ho capito. Adesso parliamo di come avviene. Allora, una volta acquistato il mezzo e il primo documento è in mano, la conformità, si va all'amministrazione provinciale di Bari, ho inteso che di Bari quel signore. Certo. Ecco, e si presenta una domanda nella quale si mettono tutte quante i dati, perché loro già hanno una licenza, da quello che ho capito, sì, sì. Loro hanno la licenza per i vari mezzi, questa certo. È un'aggiunta, è un'integrazione alla loro licenza, quindi si fa una domanda dicendo sono autotrasportatore, un numero della licenza, tutto quanto, guarda. Ho acquistato questo mezzo, l'ho fatto diventare scarrabile. Non solo, ma ho aggiunto, e lui sta aggiungendo ancora, altre particolarità che gli servono per la sua attività, e qualunque cosa venga fatta, tipo lo scarrabile o non so, la gru messa sopra per tirare su il ferro e per tirare su la merce, sì. Sono cose che debbono essere collaudate. Allora, una volta che lui ha fatto questa operazione, si quindi rivolge, ha fatto questa domanda, ripeta, a chi? Alla provincia, all'amministrazione provinciale. Benissimo. Cioè, benissimo, benissimo. Dopodiché? Gli viene rilasciata in busta chiusa la conformità con l'autorizzazione al collaudo. Questa busta chiusa viene rilasciata dopo che lui ha fatto questa domanda, nella quale, ben sapendo quanto pesa quella strumentazione che lui mette sopra la macchina, questo mezzo, deve dichiarare pressappoco quanto sarà la portata utile di questo veicolo, perché quello è determinante tra le voci di questa domanda, in quanto se il veicolo porta 240 tonnellate, la messa in opera di una gru è una tonnellata, loro non possono più dare 2,40 ma devono dare 2,39. Ho capito. Quindi insomma, quindi, questo serve, ecco, per il collaudo. Questo serve per il collaudo, e fatto questo collaudo lui ha finito, perché il collaudo si fa in motorizzazione. Quella stessa documentazione che lui ha in mano, la busta chiusa che gli dà la provincia, la apre direttamente il funzionario della motorizzazione che farà il collaudo, e questo collaudo permette di rilasciargli le targhe. Naturalmente anche lì c'è un minimo di burocrazia, perché anche nella motorizzazione c'è un ufficio trasporto merci nel quale va annotato tutto quello che è avvenuto, la licenza che gli è stata rilasciata, debbono fare, diciamo, delle operazioni all'interno del sistema computerizzato. Molte province sono collegate con i sistemi computerizzati e quindi riescono a mandare molta parte della documentazione senza farla camminare, ma soltanto via mail, via... Sì, attraverso un computer, insomma. Sì, attraverso un computer, quindi... Ecco, quindi lì avrebbe finito, diciamo così, di patire i suoi 7 dolori. Probabilmente è avvenuto, probabilmente perché non ha trovato qualcuno che lo ha aiutato in un modo... Ecco, proprio. Allora, io a questo punto tornerei dal nostro radioascoltatore Battista. La convince la spiegazione che le ha dato l'esperto Giorgio Schiavo? Sì, sì. Quindi a questo punto noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori che il percorso da fare è effettivamente quello che ci è stato descritto. Velocissimamente, nel ringraziare il nostro radioascoltatore, chiedo a Giorgio Schiavo che cosa si potrebbe fare per eliminare qualche passaggio burocratico e rendere più agevole la vita agli artigiani e ai piccoli imprenditori. Qualcosa si può fare decisamente, ci sono troppi enti che ci vanno in mezzo, ad esempio adesso non che io l'abbia con le amministrazioni provinciali, ma fino a pochi anni fa non c'erano, e questo è un ente al quale si sono attribuiti troppi compiti nel settore automobilistico, oggi hanno in mano tutto quanto loro. Esattamente, autoscuole, agenzie, sì, trasporto merci, eccetera. Oltre che ovviamente alla gestione delle strade e della viabilità. Io ringrazio il nostro esperto Giorgio Schiavo, gli auguro una buona giornata, grazie in regia a Fabio Cantodori e in studio a Laura Fagine, e a risentirci per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.